Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, dallo street food in barca al lavaggio auto a domicilio, passando per i profumi alla spina e l'edilizia acrobatica. Anche le idee di business più originali fanno rete e si aprono al franchising, mentre nel mondo del cibo trionfa un trend su tutti, la pasticceria. Siamo andati a caccia di novità tra gli stand di due appuntamenti di settore molto rappresentativi che guardano entrambi al futuro del commercio, il salone del franchising e Host. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. Che cosa significa un viaggio in Italia per gli stranieri e quanto ha a che fare con l'acquisto di prodotti made in Italy? Lo svela una ricerca molto interessante che racconta punti di forza inediti per il nostro paese e le sue eccellenze da esportazione. Anche i consumi si mettono al servizio delle emergenze. La sharing economy scende in campo per la crisi dei migranti in Europa e così anche l'accoglienza diventa condivisa. Sono i segreti dell'economia circolare. Io sono Michele Manara, sono il titolare di Ecoline Wash autolavaggio a domicilio. Il nostro sistema permette con il vapore di lavare esternamente ed internamente le auto, e non solo le auto, perché il cliente ideale potrebbe essere il parco auto aziendale, ad esempio, o chiunque non ha il tempo. Quindi andiamo a barche, ambulanze, camper, taxi. Riccardo Iovino invece ci parla di una novità mondiale che riguarda il mondo dell'edilizia e che si chiama edilizia acrobatica. È la prima impresa al mondo di edilizia operativa in franchising innanzitutto, e quindi un'impresa edile altamente specializzata. E noi la chiamiamo le soluzioni che arrivano dall'alto, praticamente un'impresa edile che lavora senza piattaforme, senza ponteggi, tramite degli operatori specializzati che lavorano appesi con le corde. Questo per dare un grande vantaggio competitivo al cliente finale in termini di innanzitutto di risparmio, ma anche di sicurezza. In aggiunta, per poter garantire alla signora Marcella del quarto piano di poter essere libera di aprire le finestre del proprio appartamento quando le stanno rifacendo la facciata, trovandosi dei bei ragazzi davanti appesi con le corde invece che un orribile ponteggio. Che cos'è In Estasi? Allora, In Estasi è una nuova idea di profumeria. Noi spigliamo direttamente il profumo in negozio. Quindi tocchiamo anche il lato ecologico della cosa, perché il cliente viene, sceglie il profumo da ricaricare, la seconda volta porta la bottiglia, lo spigliamo direttamente dai nostri dosatori e viene scalato ancora il costo della bottiglia. Abbiamo 150 profumi, sono tutti made in Italy. Qual è la differenza con i profumi tradizionali? Sul prodotto è nessuna, perché comunque sono le stesse essenze, lavorate in un modo diverso. La differenza sostanziale è il costo, perché comunque un 50 ml viene venduto a 19,50 euro, un 100 ml a 27,50 euro, quindi siamo più o meno al 70% in meno. C'è spazio anche per lo street food qui al Salone Franchising. Siamo con Danilo Di Vita Russo, titolare di Cruscos, che ci parla della sua visione di cibo di strada. Il pezzo, diciamo, un po' più originale è la barca elettrica, dove io posso arrivare fino alla spiaggia e fare dei fritti esattamente ai bagnanti. Vanno su questa barca, in questa barca prendono i fritti, bevono e hanno mangiato una frittura di qualità. Street food a seafood, diciamo così, il fritto cucinato in barca e servito sulla spiaggia, beh, è un'idea sicuramente originale, una di quelle che ha raccolto per noi Adriano Palazzolo al Salone del Franchising edizione 2015. C'erano anche, lo avete sentito, il lavaggio auto a vapore a domicilio, l'edilizia acrobatica e la profumeria alla spina. Il nuovo retail post crisi è a caccia di novità e la formula del franchising cerca di intercettare questa esigenza. Seguendo quali trend? Lo abbiamo chiesto a Thomas Bialas, che per il Salone ha indagato gli scenari futuri del commercio. Io credo che dobbiamo abbandonare i trend, infatti una delle cose che affermiamo qua è che per avere più futuro ci vogliono meno trend. quello che oggi bisogna veramente fare è cogliere quei pochi cambiamenti fondamentali che stanno ribaltando tutto, e cito due uniche rivoluzioni importanti per qualsiasi settore, quindi anche retail. Uno è, ormai lo sanno tutti, la digitalizzazione che porta a disintermediazione, smartizzazione, e l'altro grande rivoluzione è la artificializzazione, e qui parlo dell'intelligenza artificiale che sarà la grande prossima rivoluzione anche nel retail. Io ho visto alcuni esperimenti fatti dall'IBM sui computer cognitivi, i siti pensanti, e dove l'assistente digitale del sito ha una tale capacità, cioè dialoga con te, che ha molta più esperienza di un commesso reale nel retail, quindi questa roba qua farà altri disastri. Però dicevo, oggi più che focalizzarsi sui trend, le aziende del retail dovrebbero ritornare a ragionare su delle parole di vero contenuto, fra cui purezza, come per il vino, ragionare in termini di il retail in purezza, che si concentra al 100% sull'unicità, no, del contenuto. Parliamo di senso, di più intelligenza, di più lungimiranza, perché molte aziende nominano il futuro, ma non basta nominarlo per averlo in assortimento, cioè per averlo veramente bisogna avere in azienda un responsabile per la lungimiranza. Oggi, dove un buon 30% del retail comunque scomparirà nei prossimi 10 anni, a prescindere, perché non ce n'è più bisogno, bisogna essere molto attenti, accurati nella scelta, cioè bisogna capire se un negozio, al di là del grande brand o del grande marchio, pensiamo a Blockbuster, uno in passato aprendo un negozio con Blockbuster diceva che è una catena enorme, già lì bisognava capire che quel mercato era già morto, perché quando è arrivato l'iPod, iTunes eccetera, già si intuiva che il futuro sarebbe stato di vedere il film on demand e non comprando i DVD. Quindi io quello che posso dire a un potenziale franchisee, cioè a chi si vuole affiliare, di essere molto critico nel vedere l'offerta, al di là dei giochi di magia, dei fuochi d'artificio e del grande nome, capire se quel mercato esiste e soprattutto esisterà ancora fra 5-6 anni. Questa è la sfida più difficile per un piccolo imprenditore. Se Benetton fa il franchising perché hanno le magliette, hanno fatto bene. In pasticceria è molto più difficile, perché se vuole fare buona pasticceria, la pasticceria dietro deve avere un laboratorio, io non sono clonabile. Lo avrete sicuramente riconosciuto, del re del cioccolato Ernst Knamm, che ad Ost 2015, l'altro salone dedicato al futuro del commercio, ha rappresentato uno dei grandi protagonisti del mondo food in questo momento, la pasticceria, con tutto l'universo cake design, ma non solo, tanto street food anche qui nel dolce, e poi preparazioni speciali come quelle senza glutine oppure per vegani. Le interviste anche in questo caso sono di Adriano Palazzolo alla campionessa mondiale di zucchero artistico Barbara Castiglione e a Gennaro Volpe, vicepresidente della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. La cosa più importante oggi nella pasticceria è conoscere bene le materie prime. Si va sempre di più verso la qualità dei prodotti, la qualità delle materie prime e anche la tracciabilità delle materie stesse. Quali sono però i prodotti a cui i clienti non rinunciano, oppure le novità? Per quanto riguarda la pasticceria, credo che i clienti non rinuncino a niente, nel senso che la pasticceria ti fa tornare veramente un po' bambino. Le novità, ecco, ci stanno chiedendo molto di lavorare per quelle che sono le nuove problematiche o le nuove tendenze rispetto a intolleranze, quindi ad esempio prodotti per celiaci, oppure anche persone che vorrebbero assaggiare un dolce però sono magari vegetariane piuttosto che vegane. Quindi molta formazione, molta innovazione si cerca di farla proprio in questi campi. È un mestiere, quello del pasticcere, che in effetti sta vedendo un grandissimo sviluppo. Si punta sul classico, si fa l'innovazione e si cerca di vestirlo diversamente dalla solita torta classica che si faceva una volta. E quindi sono abbinamenti di strutture, creme, però sempre con prodotti classici vengono utilizzati. Ci mettiamo altri ingredienti di innovazione, però la gente ritorna sempre sul classico. Ci sono anche delle nuove lavorazioni? Sì, allora le torte presentate come l'entremè, che è una torta, diciamo, nasce con una torta moderna, è una mousse, su torte che, diciamo, in Francia sono stati i primi a fare queste torte elegantissime, con glace lucide, presentate in modo diverso. Però la torta, presentata in un certo modo, che sembra una torta finta perché è talmente perfetta anche nel taglio viene costruita, stratificata, tutti i strati perfetti, quindi anche quando il cliente taglia una torta per degustarla vede che c'è dentro una costruzione del dolce e la bilanciatura del dolce, di abbinare le creme con tutti gli ingredienti, quindi di avere una stratificazione perfetta anche all'interno, quindi non solo bella ma anche buona nei gusti. Anche l'accoglienza diventa condivisa grazie alla sharing economy e il modello Airbnb potenzia la solidarietà via web. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Essere e Avere. Perché non vuoi ammetterlo? Ti sei divertito molto? Pensa ciò che ti pare. Cosa ti dicevano tutti quegli italiani? Che ti raccontavano le solite storielle? Geloso? Non mi far ridere. Sarà meglio per tutti e due se non restiamo insieme. Vado a Capri ad aspettare la risposta di quella gente che vuol comprare la villa. Ma certo, a Capri ci sono i tuoi cari amici e ti divertirai. Sapete che l'85% degli stranieri si dichiara soddisfatto del proprio viaggio in Italia. Lo rivela la ricerca promossa dalla Fondazione Italia, Patria della Bellezza, che indaga anche la correlazione tra il livello di soddisfazione per un viaggio nel nostro paese e la propensione dei visitatori a comprare italiano. Il presidente della Fondazione, Maurizio Di Robilant. La Fondazione si pone l'obiettivo di accrescere la consapevolezza nelle istituzioni, nei cittadini italiani e soprattutto negli stranieri, che l'Italia sia potenzialmente la patria della bellezza e che grazie a questo posizionamento si possa davvero competere da leader sui mercati globali. Il turismo noi lo vediamo come un elemento chiave di questa operazione. L'Italia dopo l'Expo non è uguale all'Italia prima dell'Expo, in che percentuale lo vedremo, ma certamente è stato un momento di grande costruzione di credibilità. Allora noi siamo convinti che il turismo sia una delle grandi leve per fare in modo che la reputazione e lo charme e l'attrattività del nostro paese continui a crescere nei vari comparti nei quali operiamo. Dato che primeggia della ricerca la soddisfazione e il gradimento degli stranieri per un viaggio nel nostro paese. Sì, è impressionante, siamo veramente amati e amati moltissimo, la percentuale di gente che ama questo paese è superiore di quasi 10 punti a tutti gli altri paesi in cui gli stessi viaggiatori vanno, quindi abbiamo una capacità seduttiva e attrattiva fortissima. Abbiamo notato che la propensione all'acquisto di prodotti italiani per chi ha fatto un viaggio in Italia cresce di alcuni punti percentuali. Ora, non è la crescita di quel punto percentuale che fa la differenza, ma indica un potenziale interessante. Siamo convinti che l'opportunità del viaggio in Italia sia poi quello di scoprire il saper fare delle nostre imprese e dei nostri prodotti. Questa ricerca è la prima ricerca che si fa sull'esperienza. Allora, il 49% di chi ci ama moltissimo, quando va nelle regioni più nascoste, ci ama ancora di più. Quindi il dato che ne viene fuori è che esiste un'Italia nascosta, che noi italiani sappiamo benissimo, ma poi ce lo dimentichiamo, che ha una capacità seduttiva e attrattiva che è molto più elevata di quelle che sono le classiche tre porte d'ingresso, Venezia, Firenze e Roma, che sono il grande portone in cui la gente viene in Italia. Punti di debolezza fondamentali sono legati diciamo ai servizi in generale, ma più che ai servizi al problema di trasparenza e rapporto qualità-prezzo. Siamo il paese con la valutazione più bassa su questo elemento. Non è possibile che i turisti che arrivano qua hanno il problema se prendere o no il taxi, perché hanno paura che pigliando il taxi chissà che cosa gli succeda. Dico il taxi, ma questo vale per tante altre cose, ristoranti, alberghi e cose di questo genere. Quindi c'è un grande lavoro da fare per riempire questo gap. Italiani, rendetevi conto che avete una perla meravigliosa nelle mani, una perla di cui voi non sapete più e non vedete più. Passate in macchina davanti a palazzi straordinari, chiese uniche, imprese fantastiche e non ne percepite l'unicità, cosa che invece gli stranieri sentono molto. Allora, se noi non diventiamo consapevoli di questo, saremo dei cattivi ambasciatori e male mostreremo tutto questo bene che abbiamo. Are you guys doing tonight? chance to give it to you. You just gotta remember to use it. Say freedom! Sui trend. Così qualche giorno fa, lo avete appena sentito, a Milano Pharrell Williams ha chiuso gli MTV EMA 2015 introducendo una versione veramente straordinaria della sua Freedom e lanciando la campagna a sostegno della crisi mondiale dei rifugiati, una crisi che sta mobilitando le coscienze di tutto il mondo, ma anche le energie creative, i settori, i brand, in una parola il mondo dei consumi, che si mette al servizio dell'emergenza. Un settore su tutti lo sta facendo è quello della sharing economy, l'economia della condivisione di cui tanto parliamo, che mette a frutto nel migliore dei modi, in questo caso la sua formula basata sulla partecipazione, la condivisione delle risorse e la possibilità di creare grandi reti sociali. Ne parliamo con i ricercatori di Future Concept Lab, Carlo Ricciardi. Ciao Carlo, bentrovato. Buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, partiamo dal caso che ha fatto più notizia, una sorta di Airbnb per migranti. Sì, si tratta di Refugees Welcome, una piattaforma ideata da tre giovani di Berlino che ha permesso di offrire in poche ore 800 abitazioni da parte di abitanti di tedeschi ed austriaci per aprire le porte delle proprie case a 400 persone provenienti da Afghanistan, Algeria e Bangladesh. Una realtà simile è stata lanciata anche in Olanda e si chiama Refugee Hero. Smartphone e app. Mai prima d'ora, Carlo, la tecnologia era stata così protagonista nell'emergenza rifugiati? Sì, io registro un primo segnale che c'è stato a settembre durante la famosa marcia dei rifugiati in Ungheria per raggiungere il confine austriaco. Già lì c'era stata una mobilitazione dal basso attraverso l'hashtag March of Hope, che aveva, come dire, sollecitato gli austriaci a mettere a disposizione le proprie auto per aiutare i rifugiati in questa traversata. E le immagini della colonna di auto hanno fatto il giro del mondo. Esatto, lo step successivo è quello di sviluppare proprio delle applicazioni dedicate a queste problematiche e possiamo parlare per esempio di InfoAid, che è un'applicazione gratuita creata da un team di ungheresi che permette di conoscere in tempo reale quali confini siano aperti o chiusi, quali siano i mezzi di trasporto, eccetera. Punto forte di questa applicazione è che è disponibile in 6 lingue, perché nella maggior parte dei casi il problema è proprio condividere queste informazioni in tutte le lingue parlate dai rifugiati. Informazioni importanti, anche alcune che per noi sembrerebbero, come dire, scontate, ma per dire, InfoAid informa dei rischi quotidiani come quello di mangiare funghi che i rifugiati non hanno mai visto prima. Un'altra piattaforma che favorisce invece l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro è I'm Not a Refugee. Nella home page la scritta in inglese "Io non sono un rifugiato" è seguita da una serie di "Io sono un medico, un ingegnere, una babysitter", con delle schede dove ognuno dei rifugiati si presenta per quel che è, non per la propria condizione di rifugiato. È quindi un modo di affermare la dignità personale attraverso il proprio lavoro e magari di trovarne uno. Anche per la formazione sono stati allestiti dei servizi online dedicati. In Finlandia c'è Funsi, che offre corsi per l'inserimento sociale dei richiedenti asile, o a Berlino c'è la Kiron University, che è online e gratuita, permette ai rifugiati di frequentare questo corso universitario senza fornire documenti autenticati degli studi precedenti, che spesso sono difficili da reperire nei paesi di provenienza. È uno scenario molto in fermento, le segnalazioni sono praticamente quotidiane di nuove piattaforme e nuovi strumenti messi a disposizione, tanto che c'è un'iniziativa che vuole fare rete, vuole metterle tutte insieme. Sì, l'iniziativa che è stata ideata da Mike Butcher, l'editore di TechCrunch, che ha organizzato TechFugis, un incontro tra programmatori, operatori umanitari e tecnici, che ha proprio l'obiettivo di coordinare la risposta della comunità tecnologica alla crisi dei rifugiati. in H Farm a Roncade in provincia di Treviso si terrà l'edizione italiana di Techfagis fra il 5 e il 6 novembre. Abbiamo spazio per un ultimo caso, me lo hai anticipato, testimonia come anche un prodotto, un servizio tradizionale si possa mettere a disposizione delle emergenze. Sì, da oggi infatti rifugiati e immigrati in Francia gireranno anche loro con una routard sotto il braccio. Non sarà la routard classica che noi portiamo nei nostri viaggi, ma sarà un volume di solo immagini per dare a chi arriva in Francia, senza conoscere una parola di francese, uno strumento per comunicare. Questa guida, che si chiama Hello, va usata in maniera semplice. Ci sono tutte delle sezioni riservate alle informazioni pratiche, dormire, salute e igiene, e sono rappresentate da immagini, quindi il rifugiato indica una delle immagini per comunicare il proprio bisogno della serie: cerco un letto, ho bisogno di un bagno, dove trovo un biglietto per l'autobus. Come sempre i link e le immagini sulla nostra pagina Facebook. Grazie a Carlo Ricciardi, alla prossima. Grazie a voi. Il consumautore. Siamo in chiusura, ci ha raggiunto come sempre il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. Il tema di oggi. Il tema di oggi è la circolarità. L'idea che l'economia sia sempre più circolare e che ha tanti diversi aspetti possibili. Possiamo partire dalla dimensione di una circolarità solidale, circolarità dei valori. Sappiamo quanto oggi la sharing economy faccia parlare di sé. In Italia abbiamo un esempio straordinario che è il banco alimentare. L'idea cioè di recuperare prodotti in scadenza per poi ridistribuirli in ambiti bisognosi. Ecco, questo è solo un esempio, ma il fatto che questa stia diventando una strategia ai massimi livelli è dimostrato dal fatto che proprio in questi giorni la banca Intesa San Paolo ha presentato il proprio progetto di Circular Economy. È un progetto importante legato alla sostenibilità. Insomma, circolarità significa anche recuperare risorse che già esistono e rimetterlo in un circuito commerciale. Quindi redistribuzione delle risorse, al quale accennavi poco fa, un altro dei temi all'ordine del giorno, per così dire, e anche, direi Francesco, un cambiamento di equilibri nelle dinamiche, nella filiera sia produttiva che comunicativa. Sì, in questo senso cambiano proprio i modelli di business, no? Tutti sanno quanto Uber, Airbnb stiano stravolgendo le logiche del turismo, della mobilità urbana, perché loro in realtà utilizzano risorse già esistenti, le auto, le case dei clienti, all'interno di un percorso diverso e nuovo in cui apparentemente tutti vincono. Poi bisogna capire la relazione con le istituzioni e con altri temi, ma non c'è dubbio che la circolarità vincerà nei prossimi anni. Ecco appunto, innovazioni disruptive come quelle che hai citato, dirompenti, quindi, che portano con sé anche delle criticità, e questo cerchio in certi casi può non chiudersi bene. Può non chiudersi bene. Noi in Italia dobbiamo però capire che questa è la sfida da affrontare. Un terzo mondo che su questo sta ragionando è quello dei territori. In fondo la chiusura di Expo, che è proprio di questi giorni, dimostra come ad esempio i territori, le regioni italiane sul cardo abbiano saputo forse per la prima volta creare una circolarità tra il locale e il globale, quindi insieme proporre una visione che diventa potente anche all'estero, senza localismi che invece ci chiudono sui nostri territori. Quindi l'Italia ha tanto da imparare sulla circolarità. Grazie Francesco, alla prossima. Grazie a te e a tutti. E grazie anche in regia a Gianmarco Ferronato. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.